La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito, dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. La politica alla prova ancora per questo mese di settembre, un mese molto molto difficile perché deve affrontare il nodo della giunta per le elezioni del Senato sulla decadenza di Berlusconi, ma non solo. E vi ricordiamo il numero per gli sms: 349-238-6666. I partiti comunque sono sempre più divisi al loro interno ed iniziamo dal partito più polifonico, se così lo vogliamo definire, del panorama italiano, il Partito Democratico, dove Matteo Renzi ha fatto finalmente outing, ha detto che si candiderà a guidare il partito. Subito sono intervenuti Cuperlo e Speranza, il primo ha ricordato a Renzi che esiste anche la sinistra all'interno del PD, il capogruppo alla Camera invece che il sindaco di Firenze non si può candidare a premier o a segretario. E allora noi abbiamo sentito Ermete Realacci, renziano del PD. Mi pare che adesso il problema che ci abbiamo è quello di convincere la gran parte degli italiani che si può cambiare rotta. Noi partiamo da una situazione in cui purtroppo siamo stati sconfitti alle elezioni e io credo che fino a che non capiremo che bisogna ritornare a parlare a larga parte del paese, faremo fatica, diciamo, a candidarci a un cambiamento. Quindi bisogna soprattutto partire dall'idea di paese che si ha. Mi pare che da questo punto di vista Renzi con nettezza parta dal concetto che bisogna difendere le aree deboli, bisogna ridare reddito a chi lo ha perso nel corso di questi anni, anche per rilanciare l'economia al piano interno. Perché Cuperlo, perché Speranza un po' contestano questo outing del, insomma, outing peraltro scontato del sindaco di Firenze? Ma io non ho capito la natura della contestazione, mi sembra un po' diversa, mi sembra che Gianni abbia espresso le preoccupazioni per un indebolimento, diciamo, dell'impronta di sinistra del PD. Io penso che questa impronta si rafforza se riesce a dialogare con il paese, con il futuro, se riesce. Io ho trovato molto efficace Renzi quando, diciamo, ha invitato a avere meno distanza, avere più simpatia per l'Italia e per gli italiani, che sono pieni di difetti ma che sono anche pieni di talenti, diciamo. E io penso che uno dei motivi della nostra sconfitta è che ci siamo parati troppo addosso, diciamo. Ecco, io faccio una battutaccia, lo so che è una battutaccia, diciamo, ma pochi giorni fa è stato il cinquantenario del discorso di Luther King, no? I have a dream. Io trovo che l'escursione termica, la distanza fra I have a dream e Smacchiamo il giaguaro è un film di Dario Argento, è un film dell'orrore. Ecco, io penso che dobbiamo riacquistare la capacità di dare speranza al paese. Ecco, però Speranza ha detto, a proposito, che Renzi non può fare il premier e il segretario. Ma non so, se ha detto questo, ha detto una cosa che mi sembra francamente stupida, nel senso che il nostro statuto prevede, diciamo, che il segretario sia candidato premier. Adesso dire che le due cose si escludono mi sembra un passaggio, una forzatura ad persona, come si suol dire. Le cose ad persona non vanno mai bene. Ci sono i vostri sms al 349-238-6666. Berlusconi decade? No, è un ventennio, ci dice un radioascoltatore. E poi ci sono anche un pochino di sms sui raccomandati sulla puntata di prima, ma intanto noi però ricordiamo la nostra politica. Che cosa pensa il segretario del PD? Che cosa risponde Guglielmo Epifani? Sentiamolo. In ogni partito, in ogni associazione degna di questo nome ci vogliono sedi in cui ci si confronta, si discuta a viso aperto e poi alla fine si decide. Quando devi decidere poi e devi decidere a maggioranza e insieme devi anche stabilire una regola condivisa da tutti, che quando la maggioranza decide tutti si attengono alle decisioni della maggioranza. E questo era Epifani un po' ecumenico, no? Allora prima Renzi, prima bisogna fare questo congresso e poi bisogna vincerlo, questo in parole povere. Intanto sentiamo che cosa succede all'interno del Movimento 5 Stelle, perché per le 5 di oggi pomeriggio, quindi tra pochissimo, è convocata l'Assemblea dei Senatori 5 Stelle, divisi tra aperturisti, cioè quindi un possibile sì ad un governo con il PD, e ortodossi assolutamente no. Sappiamo che i numeri al Senato sono molto importanti in questo momento, qualora Berlusconi decidesse di staccare la spina al governo. La senatrice del Movimento 5 Stelle, Elena Fattori, ha già detto che chiederà la diretta streaming dell'incontro. Dal blog intanto Beppe Grillo attacca: il PD è marcio e salverà Berlusconi. Questo è l'anatema dell'ex comico. All'ordine del giorno della riunione anche e soprattutto riflessioni sull'attività di comunicazione, si contesta il capo stampa, il capo ufficio stampa, e iniziative per la difesa della Costituzione, difesa che ricordiamo per il Movimento 5 Stelle sull'articolo 138, quello che prevede una procedura aggravata per cambiare la nostra carta fondamentale. E noi su questa battaglia, e non solo, abbiamo sentito il prossimo capogruppo alla Camera, Alessio Villarosa. Questo 138 va utilizzato, i nostri padri costituenti quando l'hanno scritto l'hanno blindato appositamente, perché per modificare la Costituzione è necessario il giusto tempo, e loro in questo modo vogliono velocemente fare le modifiche che gli interessano. Anche noi siamo d'accordo a fare delle modifiche alla Costituzione, attenzione, ma farle così come prescrive la Costituzione. Quindi ci batteremo per queste modifiche, ma non siamo soli, perché tantissimi cittadini sono pronti a battersi per difendere la nostra Costituzione. C'è stato un po' di maretta anche all'interno del Movimento 5 Stelle, perché Beppe Grillo ha detto: no, andiamo al voto anche col Porcellum, tanto vinciamo. Ma voi siete favorevoli o contrari al Porcellum? Perché noi non abbiamo ben capito. Grazie per l'assist. Io già in altre trasmissioni ho chiarito la posizione di Beppe in quel post, perché Beppe scrive ma molti non riescono a capirlo, anche se secondo me è molto semplice. Però per un politico è un po' dura se non si riesce a capire, no? Certo, certo. No, noi non siamo assolutamente a favore del Porcellum, e questo lo potete tranquillamente vedere dalla posizione che abbiamo assunto durante la mozione Giachetti in aula, quella che prevedeva il ritorno al Mattarellum nel caso in cui non ci fosse stata una modifica della legge elettorale. Non siamo d'accordo neanche sul Mattarellum, ma abbiamo votato perché proprio non ci va bene il Porcellum. Quindi chiariamo una volta per tutte che noi non siamo per il Porcellum, ma che era un guanto di sfida per chi in questo momento vuole cambiare la legge elettorale perché si rende conto che perderebbe le elezioni. Ma secondo lei il governo cadrà? Cioè Berlusconi alla fine staccherà la spina a Letta oppure è tutto un bluff? Sarebbe tutto molto triste, perché un governo che cade solo per gli interessi di una persona, non so se i cittadini lo accetterebbero. E voi magari vi fate sotto, no? Con una nuova maggioranza. Ah, noi aspettiamo, nel caso in cui cade il governo, che Napolitano venga da noi, perché è quello che dovrebbe fare, cioè dovrebbe dare il mandato esplorativo a noi e il PD e noi vedremo come fare questo governo. E troveremo le soluzioni. Insieme al PD? No, assolutamente no. E questo era Alessio Villarosa, che avete sentito invece è sfavorevole a un governo con il PD qualora il PDL staccasse la spina. Intanto il PDL guarda quanto succederà alla prova del 9 settembre, quando verrà convocata la famosa giunta per le elezioni che deciderà la decadenza di Berlusconi da senatore. Il partito, lo ricordiamo, anche qui è diviso tra falchi e colombi. Ci sono state polemiche nei giorni scorsi, quando Daniela Santanchè è diventata un po' troppo protagonista, la pitonessa, no? Però intanto l'importante è questa scadenza. Il legale di Berlusconi, Franco Coppi, non esclude il ricorso alla grazia, ma intanto sentiamo Daniele Capezzone. C'è una sola cosa sulla quale sono miracolosamente tutti d'accordo loro, ed è il tentativo con una fretta sospetta di escludere dal Parlamento Silvio Berlusconi sulla base di una legge che però autorevoli giuristi anche di sinistra ritengono non applicabile al passato, non applicabile a Silvio Berlusconi. Se compiranno questo atto ingiusto ci saranno conseguenze politiche gravissime. E sulla prova del 9 settembre interviene anche Pier Ferdinando Casini: la giunta non è una caserma, il voto deve essere di coscienza, Berlusconi dovrebbe dimettersi. Sentiamolo a Sky TG24. Berlusconi non ha più diritti degli altri, ma non ha neanche meno diritti degli altri, e deve essere, secondo me, ascoltata la sua difesa con grande serietà in giunta, perché questo si dovrebbe fare con ciascun parlamentare fosse nelle condizioni di Berlusconi. E noi chiudiamo con Gregorio da Cosenza, che dice: senza Renzi perde ancora, sentire parlare Epifani mi fa venir voglia di cambiare radio. Io vi ringrazio, vi do appuntamento a domani sempre con la politica alla prova.